Sezione 4 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Sirmione. Ecco, la verde Sirmio nel lucido lago sorride, fiore delle penisole. Il sol la guarda e vezzeggia, somiglia d'intorno il venaco una gran tazza argentea, cui placido olivo per gli orli nitidi corre, misto all'eterno lauro. Questa raggiante coppa Italia madre protende con le braccia alta ai superi, ed essi dai cieli cadere vi lasciano Sirmio, gemma delle penisole. Baldo, paterno monte, protegge la bella dall'alto col sopracciglio torbido. Il gu sembra un titano per lei caduto in battaglia, supino e minaccevole. Ma incontro le porge dal seno lunato a sinistra Salò le braccia candide, lieta come fanciulla che in danza entrando abbandona le chiome e il velo all'aure e ride gitta fiori con le man piene e di fiori le esulta il capo giovine. Gardala in fondo solleva la rocca sua fosca sovra lo specchio liquido cantando una saga d'antiche città di sepolte e di regine barbare. Ma qui l'alage d'onde per tanta pia gioia d'azzurro tu mandi il guardo e l'anima. Qui Valerio Catullo, legato giù a niti di sassi il fasello vitinico, sedeasi lunghi giorni e gli occhi di lesbia nell'onda fosforescente e tremula e il perfido riso di lesbia e i multivoli ardori vedea nell'onda vitrea. Mentrella venere Angiporti stancava le reni ai nipoti di Romolo. A lui dagli umidi fondi la ninfa del lago cantava «Vieni, o quinto Valerio, qui nelle nostre grotte discende anche il sole, ma bianco e mite come Cintia. Qui della vostra vita gli assidui tumulti o lontano d'api sussurro paiono». E nel silenzio freddo le insanie e le trepide cure in lento oblio si sciolgono. Qui il fresco, qui il sonno, qui musiche legne e di cori delle cerule vergini, mentre espera allunga la rosea face sull'acqua i flutti al lido gemono. Ai triste amore, egli odia le muse e lascivo i poeti frange o li spegne tragico. Ma chi dagli occhi tuoi che lunghe intentano guerre, chi ne assicura o l'alage? Cogli alle pure muse tre rami di lauro e di mirto e al sole eterno gli agita. Non da peschiera vedi natanti le schiere dei cigni giù per il mincio argenteo? Da verdi paschi abbia onore sacri non odi la voce di Virgilio? Volgiti l'alage e adora. Un grande severo s'affaccia alla torre scaligera. Suso in Italia bella, sorridendo e mormora, e guarda l'acque, la terra e l'aere. Fine della sezione 4. Registrazione di Graffiacane.